di un portatile dentro, perché secondo me lo può messo bene, può prendere molto. Ma come l'ho fatto nuovo, non so come? Ma come l'hai comprato nuovo? Ah, l'ho fatto 600 euro, non so. Già, senti, bene, non ci capisco cazzo, tu, perché io sono andato con l'amico, gli ho detto, sì, per me gli ho detto, ah, non so, ho detto, questi due, questi gradi. Ma quello che gli ho detto, compra questo qua. Perfetto, è velocissimo. Allora, minimo, c'è una vista da 320, minimo, c'è una secusa in tubulo, non lo so, dunque, va bene anche la 320, poi, guarda, non c'è meno di 4 giga di RAM, faccio già hai preso la macchina buona, non lo so, ma purtroppo non so, possibilità non ne ho, se no avrei comprato nuovo, il computer si compra nuovo o una seconda mano. Ma tutti, certo, l'ho pagato così, no, c'ha 4 giga e mezzo di RAM, non lo ricordo perché l'ho detto per caso. E poi di hard disk, come cazzo si chiama, c'ha più. Quanto? C'ha 4 giga e mezzo di RAM. E in più l'hard disk c'ha più del RAM. Vabbè, l'hard disk è la memoria, tu lo ci metti dentro tutto, programmi. La RAM è quella che fa girare tutti i programmi, che serve per far sì che la macchina giri bene. Il mio deve fare 700 megabyte, cioè nulla, ma un giga. Non girava bene la macchina. Cioè, sì, andavo su internet, andavo su Facebook, così, però non girava bene, capito? Tu hai 4 giga di RAM, non ho 4 giga e mezzo. È un minimo, un disco da 320, minimo. Ah, no, aumentata. Quanto 2,5, non lì ancora di più. Guarda, no, io l'ho uso, io subito, come ho detto, io l'ho uso per vedere roba di rumore, macchine, roba moto di marini, cose per il radio. Ma le volevo di cantante non ti provo, capito? Vabbè, tu non fai chat, dai, non vai sulla chat. Non sembra vero, veramente. Sembra che sia lui il padrone. salto, quando non vedi quale faccia salta, e poi dopo un po' diventi un rugato alla Ruggani. Perché è allucinante, guarda, cosa che non fa a me. Sono entrato. Ma non ci siamo andati dunque per mano. Ti dare ciao Mauro, ciao. Sta mangiando, va? No, non ho mangiato, non era perché non ho un mio collega di lavoro, capito? Ci stavo facendo la chiacchierata. Ehi, ascolta, ma ormai lavori, sì. E io fino a sabato. No, perché non è a riposo, tu scusa? È la domenica. Ah, solo la domenica. Dicevo, la domenica, a meno che settimana, cioè, secondo me dovevo fare fino a un giorno di fede, da 2 giorni, quello che è. Ah, ecco, ma è un sumane sumane, sumane tone. Intanto, ascolta, quello lavoro alle 5 alle 11, che mi frega di... Secondo me devi fare, voglio, c'è in abbondanza per fare commissione. Ma ti alza, avanti alle 4, 4 e mezza. Alle 4, mi alza alle 4, alle 5 sono da voi. Vai, prendi il cambio e inizia a viaggiare. Già, ma in due viaggiate? E già, solo lo lasciamo in due, sto troppo bene, con un altro. Sta benissimo. Faccio un giorno, te l'ho detto, il monte, un giorno la croce. Noi siamo alle 5, 5 e un quarto, 5 e 20, da. Alle 11 timbro e tanti saluti. Allora, mi lo fa la pacchia, no? E ma... Che fai? Se non hai problemi, te non hai finito, però devi contare, lo devi scaricare. Deve lavare il cambio, insomma, deve avere sempre un margine per fare tutto. Ma se avete di quel camion, tu fai quei cassonetti di marrone, quelli so. Io guido sempre, lui agaccia il cassone di marrone e li svuota. Ma quella roba lì doveva finire? Capito, Luca. Ho detto, poi quella roba lì doveva finire, la mondezza, bruciate. No, allora, quella roba lì prima andava a Mores, siccome Mores con l'impianto è chiuso, adesso stiamo scaricando a Sottotiri, capito? Tra, facciamo, a Roma io facevo Chilivani e andavo verso il Tiri, sarà un pezzettino prima del Tiri, dai. Ma cosa fa questa roba buttata? No, lì c'è il macchinario che siccome da noi mischiata la mondezza, non la fanno male la differenza, c'è un macchinario che divide. E divide l'umido e smita plastica e vetro, smita la roba e non c'entra niente. E dopo lì ci sono tre celle che vanno cantate e fanno il compost la terra. Ricco, questa quei milioni marroncini, no, butta la roba da mangiare, giusto? Ehi, ma siccome ti sto dicendo che di volte la mischiano, non buttano il combo, non buttano l'organico, buttano anche plastica, buttano anche vetro, buttano anche roba plastica, piatti in plastica, roba che non c'entra nulla. Lì c'è un macchinario, loro hanno un macchinario che la butta dentro e la divide, adesso divide il compost, cioè sarebbe la mangiare, quello va messo nelle celle, va decantato e dopo fanno la terra, il terriccio è quello che vendono. Ah, ecco, capito, è quello che volevo sapere, non avevo capito che buttavano piatti, buttavano bottiglie, insomma, vetro, dai. Volevo capire il mangiare cosa ne facevano, perché fate un fiago allucinante. Quello lo fa soprattutto d'estate, ci sono angurie, pesche, frutta che diventa acqua acida e quindi fa un po' di frutta. L'inverno te le fa di meno perché c'è freddo, capito? Dopo non c'è quella roba lì. Ma l'estate il gatto la cosa la fa un po'. Ma poi li butta la roba da mangiare, pasta, carne, di tutto le lampade. Infatti con quel discorso, se loro l'avrebbero fatto pulito come si deve, che non c'erano piatti in plastica, che non c'era altra roba e non c'entrava niente, vabbè, che tanto con quei macchinari lo dividono e niente, fanno la terra. La terra che tu compri nei sacchetti, il compost. Quello lì. E tutta quella roba lì, fatta bene, la mischiano un po' di terra e va benissimo. Perché fa la concima, eh? Esattamente, fanno il concime, infatti lì sotto, a parte che lì sotto è dentro i capannoni, scarichi dentro, quelli sono scaricati diversi giorni, scarichi, è pulito, non c'è puzza, non c'è niente, perché loro te lo arriviamo e scarico, loro quella pala la mettono, la buttano, la portano dentro, la suddividono, e dopo hanno tre celle grandi, dopo lì una volta, perché quello si deve seccare, dopo va macinato e deve essere a terra. Sì, ho capito. Kappa. Ma fate un secco viaggio, beh. Ma non è rientrato Claudio? Perché? Okay. Ma riprendi tu 10 minuti che mi assento. Che vado a prendermi roba da mangiare, c'ho fa. Sì, no. Va bene. Ok, le prendo io. No, vedi. Ecco, parlo, non lo sapevo la prossima volta. Il terriccio, quel terriccio c'ho quei sacchi che si comprano, quello è compost, capito? È la roba che è dall'organico fanno la terra. Capito, è buono. E me lo lasci soltanto lì a mole, c'era uno schifo perché era tutto a cielo aperto. Tu figurati che si mettevano con tutte le mosche attaccate addosso a mangiarsi panini. Ma carità, una cosa, guarda, anche se lui ce la voleva in mezzo, però quando vedi gente che lavora così è una cosa allucinante. È bello, credo, Mauro, c'è un guido, è aspettato. È tutto condimento, Mauro, non ti preoccupare, è tutto condimento. Oh. Ehi, hai sentito a Domenico, ciao Domenico. No, ma lì quell'impianto dopo è stato chiuso, quello di More, se era una cosa paurosa. Noi siamo scesi con i camion perché non ci volevano far scaricare, con il responsabile del comune si è messo il tipo a aprire le buste, buttate a terra dal camion, 7 avanti, 7 30 prendo le buste. È una cosa allucinante, per carità, uno schifo. Lo so, però ci lavorano, sembra normale, capito? Ma anche noi ci lavoriamo. Io quando devo pulirmi il camioncino, devo togliere il busto e mi metto i guanti, non ce la voglio, non le tocco io a mani nude. Però sì, lei anche lì a concorreare, ma che loro stanno lavorando, mettono la cacchia. Ma lo sai così, lì a concorreare è carta, prima ci ho scaricato, diverse volte, ma lì suddividono, ma lavorano i guanti però, suddividono anche la carta, quindi non è una cosa come lì. Scaricando sotto tiri, è un capannone, è una cosa bella, pulita, ordinata, si lavora benissimo, guarda. Quando lo ti scarichi non senti puzza, non senti niente. Quella lì è una necessità, gente di fuori, non è necessità in questo di sardi, no? E adesso non ti ho accoppiato, non mi. Sto becchiato qua, come qua, eccomi, vabbè, non mi. Fate Luca. Ah, voglio Luca. Le cose come un briago, ma cosa? E stavi, ma è fatto in bocca adesso Domenico? No, c'ho le balle girate per il computer. Appuntiti. Ma io passi da te, via. Ultima poche, mamma mia. Perché cos'è combinato col computer? Sto inciutando. Ma non è, cioè, troppa roba, non basta avvicinarlo, lo guardiamo. Negativo. Mi hanno detto che si è rotta praticamente questa piastrina di alimentazione. Invece di dare 5 volt se ne dà 3. E non diventa tutto il circuito frampato. Allora sì, ma cos'è, portatile o fisso? Portabile. Al portatile, quello se mi fai vedere che effetto è, se becco qualche computer buttato in terra, vediamo. Non lo so, la piastra. Devi far vedere che il computer è, che effetto è. Adesso sono altri due tipo di computer, boh. È un po' vecchiotto, c'è qualche anno, dai. C'è carta, buttano un picchi, è diventato uno servo e si recupera un picchi. Non lo so, l'ho fatto un amico a controllarlo, l'altro mi ha dato una risposta, non mi ha chiamato neanche. Adesso domani mattina lo chiamo, vediamo un po'. Se no, non so dove sbattermi la testa. E mi si rompono le palle, pagare tiscali senza utilizzare il servizio. Veramente, adesso vediamo un po'. Perché io ad esempio qualche pezzo me l'ho recuperato due pezzoni piccoline, e cioè l'altro giorno ho beccato un computer grande, e cioè quello me lo smonto, mi tolgo tutte le pezzole, le memorie, quello che mi serve, poi l'altro ce lo butto. Ma dove trovi il computer che funziona? Non vanno bene, oppure hanno cazzato? notte, o magari non accendono più per via dell'alimentazione. Possono stare lì a posare al tecnico, a posare il tempo, ci buttano su con 20-30 euro, li metti nel tappone e stai di nuovo andando. Ma infatti ti sto dicendo, bisogna vedere, secondo voce, ma l'alimentatore esterno, cosa ti c'è tu con l'esterno? No, l'alimentatore va bene, l'alimentatore funziona bene, accende tutto, ma si blocca. Cioè se io apro, faccio per esempio internet, no? Internet me lo apre, ci metto un po' la verità, sta sempre caricando l'arbitri, sempre, mi va di lento. Se vado a aprire la cartella dei documenti, non la apri, cioè ma apri sì, però non mi fa piccare su quello che ho dentro, capito? E si inceppa. E io capito. E lì bisogna vedere tipo, perché se ti fa spendere poco la giusti, se no si vede che modello è, e se mi capita qualche euro buttato si prende lei, si prova, si vede. E adesso al momento non c'è nessuna possibilità, se no lo compro un nuovo. Ma vabbè, comunque Mauro, se in caso ti capita qualche case, recuperalo, poi me lo dai. E di che c'è voglia, ce ne sono anche l'isola tua, buttati. Sarà completo, mi? È completo. Ah, io ne ho preso uno, ma questo è un bel vecchio, ti è venuta. Cioè, pizze, ma sono un bel vecchio quello lì come computer. Diciamo che ce ne buttano anche, se si bucia l'alimentatore, ma stanno lì a perdere tempo, guarda se lo comprano nuovo. Ovviamente lo fa gente che ha soldi, no? È mossa di fame, come me, io vado sempre a recuperare. Io sarebbe con qualche uno, io vedo il case che è tranquillo, ci sono tutti i pezzi. Basta, si può provare, se funziona, te lo pigli. Vabbè. Adesso ci ha fatto recuperare. Uff, sinceramente di male, va, talmente abituato. Vaffanculo. Allora, ti anzù. E Domenico! Cosa è Tommaso? Fa che ti sei, hai copiato tu a Domenico? Ha detto che adesso c'è qualche virus, capito? Sicuramente qualcuno ci sarà, ma no, mi ha detto che questa piastra di alimentazione, no, non so come cosa è. Ma 110 euro no, è troppo. Ma aggiungo un quartello, lo prendo nuovo, quelli piccolini. comprando lì la 50 euro che trocco. Pronto, va, capito. Mi stavo per fare il lavoro, cioè è acceso il computer adesso. No, l'ho spento. Tanto faccio vedere il numero del computer mio. Io accendo, ci metto 2 secondi, non ci vuole molto. Beh, vai su, e vedi. E poi scrivi Toshiba, vabbè, notebook, perché è un portatile, A60, e lo trovi. Ce ne sono due, uno non ha scheda madre, insomma, ha pezzi così, tastiera, non ha neanche display, ha le scocche nuove, cioè sono in ottime condizioni, carica batterie, mi sembra, in metà tonnellata. No, non c'è il prezzo, ma c'è nell'altro, c'è il prezzo che ha questi due difetti, come ci ha detto lui, poi ha 446 megabyte di RAM, cioè è nuda praticamente, me la rimbozzo. Ma infatti, siccome le vedete qualche duro che c'è qualche pezzo vecchio, se no non è vale la pena quel prezzo lì. Computer vecchio, no, quando si piglia 50 euro se ne va già buco. Come faccio? Ma se vediamo un po'. Posso contare perché non c'ho computer, non sono stato neanche intelligente a farmi lasciare il numero, ma vabbè. E allora aspetta a vedere cosa ti dice lui, perché se riesce a risolvertelo, chi te lo fa fare a spendere su? Ma non so se ce la fa a risolverlo, dimmi Vittore. allora c'è questo che vuole 60 euro, aspetta a me, fai guardare, 40 gigabyte, 512 megabyte di RAM, e questo ne vuole 50 euro. Ma sei sicuro 50 euro compra subito? No, vendo Toshiba 7 invite a 60. Trattino 105 perfetto e funzionante. Ma 50 euro vuole? No, dire, adesso è 50 euro, però noi possiamo fare una cosa. Lo tengo d'occhio, intanto quando arriva alla scaletta mi avvisa. Franco, ti tengo d'occhio, ma poi ci mettiamo d'accordo, cioè il mio numero, mi fai sapere, mi fai il pagamento tu, no? Secondo me non ce ne sono problemi. Quando ti fai pagamento lui ti do i soldi, quindi se te lo lascia anche 70 va bene, se no l'hai capito, perché di più no. Ma hai trovato quello che ti ho detto io, quello da 110 euro? Ma ce ne sono diversi, adesso vediamo, tanto questo aspetta. Allora, tempo di marzo, 9 giorni e 02 ore. Quindi adesso aspettiamo a quando scade. Intanto mi avvisa qualche giorno prima, vieni e vediamo, no? Ascolta, ma non c'è un diritto telefonico, non c'è niente. Fammi guardare. Ma se ce lo chiamiamo, vediamo un po' quanto vuole. E se vuole quanto vuole, si umagna. Hai sentito, fai una domanda, possiamo anche... come si chiama? Possiamo anche mandargli un'email e chiedergli quanto ne vuole. Mandagli un'email, Mauro. E possibilmente fatti un recapito telefonico, così lo chiamiamo. E vabbè, adesso io prima vediamo cosa ci dice. Tanto per adesso ne hanno fatto zero offerte. Ma tu sei registrato, no? Io sì. Ma io no, non lo posso fare, capito? Poi, ripeto, se per quella cifra lì gli offri tu il pagamento, poi vieni tu i soldi, non c'è un problema, io cosa, un posto qui non ne ho, capito, un PayPal ragazzi, guarda. No, PayPal io ce l'ho, ma ce l'ho segnato la carta posta a PayPal. Vabbè, comunque, visto che poi tu che puoi comprare, vedi un po' se riesci a... Com'è? Non vedi tu, vabbè, non si vede il colore. Se il, diciamo la parte di sopra, diciamo, il tappo, è sul blu. No, il tappo non si vede sul blu, si vede che lui ha aperto nel grigio. Sì, grigio è grigio, sì. Sì, ma se è una Toshiba a 60, sa che è come il mio. Ehi, c'è scritto così. Adesso fammi mandare una cosa. Aspetta, gli scrivo un'email e vediamo cosa ci risponde. Io non è capito telefonico, Mauro. Quindi lo chiamiamo e vede quanto vuoi lui. Perché secondo quanto vuoi su cura barri. Non so, adesso non lo scrivo, vediamo cosa ci risponde. Veda. E fa che? Dimmi, l'ho mandata, adesso vediamo cosa ci risponde, dai. Ma vedi un po'. Ci stavo per attimo, c'è scritto cos'è, se XP. Non l'ho guardato, aspetta che vada alla scheda. Che vada alla scheda e vediamo cosa c'è scritto. Windows XP Home Edition. Sì. Dal bordo del nuovo schermo cos'è? Blu, nero, blu scuro si vede. Sì, il bordo del schermo è nero. Sì, e allora, ripetimento esterno del monitor di colore blu. Ora guarda il mio, no, già è quello. È gusto. Aspetta, vado un attimino. Aspetta. Ecco. È quello. E adesso vediamo se ne becco altri. Allora, fammi vedere. Ah, ve ne volevo mettere tu io. Che c'ha quei due problemi. Poi così dico, sai che questi problemi va. Ma io dico una cosa, 110 euro, ma se va della vagogna, che uno fa cazzo con altre 100 euro, ma farne anche 100, altre 120, 150, avanza, ma se lo prende nuovo, chi si va a 3 anni, in più, io lo volevo dal 2005-2006 il computer, 40 anni va. E loro c'è scritto, vabbè, 24,90, preso in partenza, anche questo qua da guardare. Dico un po' di comprare subito. Prima il computer costava milioni, cazzo. Adesso con due con 2 lire lo trufi. No. E adesso costano poco, capito? Ma allora ci voleva fare soldi da un PC vecchio. Ma infatti quando ti chiedono i soldi così non lo devi prendere assolutamente. Perché per 110, 120 euro si busta anche il giatto. Infatti, tu c'hai il fisso, vero? Io c'ho? C'hai il computer fisso? Io c'ho il fisso del portatile. E due portatili? Cappa. Uno lo vedo. No, non li prendo perché uno lo darò a mio figlio, il grande, il piccolino me lo tengo io. Ah, piccolino c'hai, quello piccolo piccolo? Sì, ne ho due, ne ho uno piccolo e uno grande, capito? Soltanto il grande e dopo lo pulisco quando inizio a usarlo, perché tanto funziona bene, non c'ha nulla. Almeno lui per imparare c'è già quello. Vabbè, sì, certo. Se no chi me lo fa fare dopo andare a comprare un altro computer, non mi conviene a me. Pure tu hai ragione, Mauro, ma è così. No, vabbè, ce n'è qualche uno che aspetta, l'alimentatore. Ah, esce, vedi? No, ma è l'alimentatore normale, non mette la nuda lì. No, non c'è niente, solo con la roba che ho visto e buco. Ehiaia, comunque, forse vuoi tipo l'altro indotto. Non lo so. Perché visto così nella foto, sembrava nuovo. Cioè, il mio proprio era tutto consumato, vabbè. Però... non so, ci riusciamo a... andare un po'... a tirargli un po' il collo, sto qua. Ma quel pezzolino, quando te lo da 50 euro, a parte dopo secondo me ti devi pagare anche il trasporto. In continente comunque. Deve pagare almeno 10 euro di trasporto. E sono 50 più euro, se non deve 110, per trasporto 120 euro. Beh, vedi, devi farsi un bagno, va. No, 100 euro più 10 rispetto 110. È troppo, ho un computer usato, e non funziona, ha problemi. Finché te lo vende va in rapporto, lo potevi anche prendere. Infatti, hai visto, Quando ieri sono andato a bere un posto, no? Questo ragazzo che stava controllando un computer, ha detto bellino, non era vecchio neanche, era un, insomma, c'è un usato, stava controllando, bomba, sotto mi ha sparato, la tua volta è sbagliato, sì, la tua volta puoi dimmi, io ormai guarda, almeno 800 euro ne devo ricavare da qua. E poi ci passa, aggiungo 100 euro, prendo un nuovo. E insomma, tieni vivo allora, 300 euro un portatile a seconda mano. No, 300 euro io ho pagato il mio, nuovo. Ah, niente, è macca, No, aspetta, ho pagato qualche cosa, no, era intorno ai 330-340 euro, ma nuovo. Se quando ho detto io a lui, ho detto, se aggiungo 100 euro, me lo prendo nuovo. E infatti. Però sono pure il nuovo, senza lasciare cagato a nessuno. Allora io sto guardando qualcun altro, diciamo, vedi? Subito, 5 minuti. E io che? Luca! Luca! C'è nessuno? C'è nessuno? Ci vogliono soldi a comprarlo un bel denaro. se no rimane qua. Ho un bel monopanda, se ti interessa, te la Icom 278H, ho portato sullo stesso da Giampaolo, qualche microfono, c'è un microfono della Yaesu, le DM33, non so se lo conosci, quella flessibile simile all'80, all'MC80, molto bello. Qualcosa ho portato, beh, ho messo tutto a parte, vediamo se c'è qualche animatore che vuole in blocco, se no singolarmente vediamo. Oh, il mio bipanda, è il gemello del mio, io ho il 2175, mi pare, il bipanda, questo è il monopanda, sono gemelli, 278, 278H e monopanda. No, ma la radio risponde bene, l'ho provata, è molto bella. No, no, è VHF. UHF, c'ho un, sempre della Icom, UHF, un desinato, sette occhiali, DC, 42. Quello è UHF, quello è UHF. A sempre ci prende su volta e me ne prende già chicina in terra. No, no, ma già qui ce n'è di roba. Qua, usci, ho sentato come usci. Non bello anche questo più 3. No, microfono ce ne ho anche trucchi. Fate un paio sicuramente li do. Adesso vediamo a chi darli, a chi darli, non ho problema. Sui 3B, lui te su 3B, te se Turner, quello è Made in Italy, lui ci fa una cagata, questo è Turner e buh, Turner, senza legge, senza battolo, Turner. Avevo il 508 della Porca miseria, la Romolo, non me lamento. Comunque una bella, un bel metro. È come l'MC85, metto. È come l'MC85, solo che praticamente è una marca diversa. Non è un problema questo, va bene. È buono, vai tranquillo. E lo vedo colleghi, anche radio lo colleghi. Che radio la colleghi, dove lo metti col microfono? Ah, 735 lo stai usando. Beh, facciamo allora qualche regolazione. E basta, mi pare. Allora, quando tu lo metti al 735, che io l'ho avuto, il... porca miseria, mi metto già macchia, ragazzi. Comunque, un bel microfono, molto bello, anche esteticamente mi piace. Meglio dell'MC85, è bello, metto. È bello. Allora, tu quando lo inserisci al 735, ti disinserisci il processore della radio e ti inserisci il compressore del microfono e ti tieni con l'equalizzatore sia la tonalità, i toni e gli alti, no? C'ha le due scale, alti e bassi. Ti tieni più o meno tutte e due su due o tre tacchette. E se magari non avevo su un microfono. Costa 100, 190, mi pare 210 euro. Oggi no, con il microfono non si scherza. Costano più i microfoni quasi quasi che le radio, quindi è sempre un affare top. Non va problema. Poi quando ti arriva ci mettiamo un attimino e facciamo regolazioni. Io mi ricordo ce l'avevo quello lì e lo usavo praticamente col processore dell'HF disinserito. E usavo il compressore del microfonico, con le tonalità me le bilanciavano, un po' medio alte, un po' medio basse. Una canonata, era una canonata. Ciao, ancora avanti. Ciao, Rodi, ma è tratto, ho ascoltato. Bene, in effetti sì, era una canonata, sì. Sono il microfono muore. Non mi ricordo la sigla, cazzo, quella, perché io c'avevo il 508, finiscono quei microfoni Tore, tutti con 8, c'è il 908 che è quello grande, il 600 mi pare 8 e il 508, l'Adonis, non me lamenta io, Salonis, l'Adonis M508, c'è una canonata, e quello lì è della stessa casa dell'Adonis, no, come avevano fatto gli alimentatori, quelli della Nissei, sono Daifa, sono uguali, sono Daifa, hanno cambiato la sigla perché c'è stata una fusione di società. E quel microfono che hai tu è dell'Adonis ed è una cannonata, la M908, io c'avevo 508. L'unica cosa che devi fare è è disinserire o usi uno il processore o usi il compressore. Capito? Perché il microfono c'è il compressore, mentre usando il processore della radio, usando anche il compressore, è troppo forte la modulazione. Allora decidi tu, o usi uno o usi l'altro, tu. E guarda, la modulazione, poi faremo delle prove, comunque lo proviamo, non c'è problema. Avanti a tu, che io sono arrivato poco fa, alle 9:10 sono arrivato. Ho cenato velocemente, infatti sono ancora sono vestito, mi sto piano piano parlando e spogliando. Riprendi allora che mi metto 5 minuti e 7, così cambio anche il radio, mi attacco l'HB23. C'ho un tornado anche io, il mio amico Giampaolo, l'ho controllato oggi. C'ha un problemino, e non riesco a togliere in piedi la verità, sulla ricezione. Praticamente fa questo tic tic tic in ricezione. Ho eliminato la colonnina esterna e l'ho attaccato al toporante esterno e lo fa un po' di meno. Non vorrei che sia la parte ricevente, ci sia qualcosa in perdita e quindi mi stia dando meno continuità e va quasi in protezione, perché è un difetto molto molto strano. Bello questo tornado, è nuovo, io voglio mettere a posto. Adesso se non trovo più io, lo mando da un amico, glielo faccio mettere a posto a Giampaolo. Ok, l'antenna ce l'ha già su e quindi non ci sono problemi. Poi dell'altro sono già messo d'accordo con Antonio Falchetto e vediamo di fare questo business. Quanto? Gli ho ritirato un M500, che se tu lo vedi ti metti le mani in testa. Dentro la scatola era, ma nuovo, sai cosa vuol dire nuovo. Come quello c'è tu che abbiamo messo a posto? L'M500. Uguale, precisamente che al tuo. Ma nuovo. Me ne ho portato su 4 di microfono. Da TAF, di cui al contrario più 3. Stamattina ce l'ho da Giampaolo. Ma non siamo andati a questo microfono. Nuovo. Uno spettacolo a vedersi. Nuovo. C'è a fare le connessioni, perché non sono mai state fatte. Nuovo. Ma bello, eh? Chi sono un M500? Nuovo. Se ne vai tu. Fatti portare da me, non mi fai un cazzo tu di quello. Adesso dobbiamo fare qualche operazione, dobbiamo scegliere più tre lì. Fai va Dio Claudio. Futti di lì tu. No, io sono interessato per quello scambio, lo sai. Quello scambio è già tuo, non ti preoccupare. Quello scambio è già tuo. Non avere problemi. Però è preferibile, anziché mettere un M500 sull'87 ci mettiamo un tale più 3, no? Cazzo, se permetti. Va bene, forse. Ci fanno la prova, vediamo. Ma sono convintissimo che va molto meglio il tale più 3 sul tuo, che è l'M500. Possiamo anche provarlo, non abbiamo problemi. Non avevo un microfono. Ehi, tiriamo in vicino, mettiamo un microfono. Ne abbiamo un bel sul microfono. C'ho anche uno Yaesu, un DM. Tu cosa stai prendendo? Icom. Guarda, Icom con Yaesu si sposa bene, Vittore. Ho anche un Messico 33, tipo l'MC80, non l'85. A flessibile, normale, con piantone e tutto. Nuovissimo, lo stesso mi ha dato Giampaolo, anche quello in vendita. C'è il potenziometro, bello, molto bello il microfono, l'ho avuto anch'io, con la capsula di quelle ceramiche a siluro. Sono molto molto interessati con le capsule. Poi il microfono è a palla, no? Flessibile però a palla, tipo muscle giocantante, no? Claudio. Oh, ma segnalaci 9:20, Etto. È che non hai radio, cazzo, dai un po' più di mic. Le trasferte sono un po' costosuce, un viaggio e cose, ma compagna va bene? Guarda, stavo parlando proprio infatti parlato perché ero a Lendas e poi ero con Pira, siccome l'amo. Mi metto qua, secondo me conviene sulle trasferte organizzarci col pulmino, ci costa di meno. Perché se io prendo di quei pullman piccoli a 15 posti mi costa di meno che stare con le macchine, mettere benzina e balle e balle. Ah, quello c'è vero, conviene più un pullman dico io. Se risparmia tutto quanto, e voi se lo mette bene, potete bene tranquillamente, già c'è l'autista. Se non vedo l'autista pure. Sabato di Chivida, c'era Luciano, forse lo conosci, gli autistali dell'Ast. Ma tu mi autista lo posso dire, vai, passa via tu. Cazzo, mi devi di Goggio? No. Ma voglio così, non voglio così. Adesso vediamo. E ci abbiamo tempo, vediamo un po' cosa fare. Comunque, almeno per divertirci, già ce l'abbiamo quest'anno al passatempo. Avanti, Donareddo. Diva, ero dall'anno scorso, già quando avevamo fatto il torneo Sino, che mi avevano messo in mezzo. Poi alla fine ho ceduto e quest'anno mi sono trovato a dirigere questa squadra, tra l'altro l'ho fatta io con Adamo e Gennaro, già lo conosce Antonio, quando abitavo lì via Pascoli, e vabbè, pazienza, è andata così. Solo che se mi impegnano troppo è un casino per me, perché io adesso vabbè, sabato siamo qua al campo di Rizzetto, al manicomio, al campo della full time, la squadra di Cosimo Salis, e sono vicino, sono reperibile, c'è il problema, cazzo, ci mi capiteggia anche sabato le reperibilità, e sono a Porto Maggiore, a Tiesi, tocca facciamo un cacchio puntanini, cazzo, la scuola fa una cosa, vai a Salis, hai detto che io già sono già a Tiesi. Quindi attento, perché lì si buffa la manna, Si trova a fare il calcio, perché... calcio, quello piccolo giochiamo. Ma buffa la cosa? Che è stato detto qui? Mio socio mi ha lasciato un'eredità di quelle allucinanti. Sotto il Cuga, vicino al Cuga, c'è una casa di 250 metri quadri. Quindi, se vi ubriacate, dormite tutti lì in mezzo ai tuppi. Chi cazzo mai aveva 20 anni già andata a Sciaccaccia? Ma questa cazzo mi ha portato la buona, il mio socio. Ma io volevo che andavo giù a Bida. E a fare che cosa? E a pulire giù e giù. Sai, poi facciamo il nome in campagna a vedere com'è. Cazzo, ci ho cantato, tu già l'hai conosciuta, c'avevo il Volvo. Cazzo, detto, mi ha doppie, perché a me su ci ho sempre dato il doppie. Io in questa strada non ci salgo. Ah, io le viga, che non le vale nulla. Non ci salgo in questa strada. Beh, ho fatto anche la carriera, ci vedeva a casa. L'erba, arriva al tetto, cazzo, al tetto. Detto, ma... No, che non mi faccio giù qualche ore che sei a mezzadria, gli annetta tutt'iscio. Cazzo, me la lebba, chi pare a mi hai puri. Non lo posso immaginare, beh. Allora, i tuppi non si sono avventati, no? Gita, e metto, mi dai, mica 9, ho parcheggiato, abbiamo fatto 10 metri a piedi. Ci va a staccare, molto bella, l'avevamo ristorata. Tanti anni fa, comunque molto bella la casa, c'è acqua, luce, telefono, tutto abbraiata. Cazzo, mi pistrelli le mani a viso, cazzo, mi aggiurico pure, pure a mani su piccole ali, cazzo. Mamma mia, cosa fai, ragazzi? Ma cosa più? No, una cagetta che sono gialughe. Altri gialughe, cazzo, era tutto pieno di cose, i gecchi, i cazzo, tutti. Mi mancava i serpenti e i coccodrilli. L'un resto di animali erano tutti. Cazzo, ma i ragazzi pare ai serpenti. Dai, io più di tutto ci stiamo andando, io. Infatti, per aiuto, mi dice, mi braccate. La terza del campionato mi faccio dormire a Itti, c'è la casa, non c'è problema. Cazzo, è dormito in mezzo ai giurichi. Ah, per l'altra non c'è rimasto più niente. Mi hai mangiato tutti i giurichi, gli altri, cazzo. Quando l'altra. Adesso lì, zio Claudio fa una bella bonifica, appena c'è 5 minuti. E poi mettiamo il cartello a venderci e pulimo di una sciacchetta. L'unica è quella. E come fa? Ci sono 350 alberi di olive. Ma ci adesso pure. Poi c'è dietro, c'è un frutteto, io penso che siano un paio di ettari. C'è un giovane, io mi pare che non l'ho neanche sposato, in lire 700 milioni l'avevano fatto. Buono, ma c'è già da va, cosa vale in chi? Ma c'è, è proprio la zona, mi pare si chiami Caparretto. Cappa, beh, adesso ne parla tutti, ma di Andrea Caparretto si chiama. Caparretto, sì, la zona si chiama Caparretto. Cappagatta. Proprio dove la conosci? La conosci tu dove? Uscendo da Itti, da Travecchia che va all'Alghero. Uscendo, sei Caparretto c'è la zona. Uscendo da Travecchia che poi taglia nella strada. Quella che poi congiunge con la strada che fa Olmedo, va. Sì, ma per me stai dicendo, la stessa prima di discorso, con la cantoniera, con la cantoniera. Allora, dalla cantoniera, sino a sotto la diga, quello è tutto, tutto nostro. Due vecchietti che erano seduti fuori. sono i cognati, erano cognati e mia suocera. Così, ho sbagliato sto. I padavani di Apoli, quelli che hanno investito seduti, cos'era? No. Il padre e la madre di Andrea. Il fratello di mia suocera. No, e cosa era? Boh, lo lì. Comunque l'uscio. E poi gli ho preso un po' io perché ho poi gli hanno messo prima la carbone. E si chiama proprio un carbone, poi hanno fatto il carico al fondo. Ma vabbè, simula sto dicendo io, e simula Sini, Antonio Sini, impresario, tutta questa razza. E c'è gente che già ce l'ha la pila con le batterie, mi. E comunque bella quella, come l'hanno fatto, Cioè, anche in mia vita io cosa mi sono fatto così come che tu, è l'unico di non fa. Bella. Sì, ma ti sto dicendo che io quando sono andato, certo c'è l'erba a 2 metri, ma poi bisogna bonificare tutto, e raggiungere la torre, e se no aspettare quando ci può mettere fuoco, una carica di benzina, perché a me non mi piace l'erba, capito? A me piace la casa tutta a cemento, in modo che cammino tranquillo, non mi sporco, e non ci va un cazzo, vero tu? Ma ci vuole pure il fatto verde. Discussione. nome di nessuno lì, nessun problema. L'unica discussione che si può avere è il cavo di discesa, però siccome è canalizzato si fa scendere il 58 e non c'è nessun problema. Uno è già sull'antenna, nel poi non c'è più niente. Poi non c'è più niente, c'è stamattina già un po'. Quindi l'unico problema è mettere il cavo fine, si fa scendere il cavo fine canalizzato come quello delle VHF. Il problema è risolto, lui è a posto, mi ha portato sul tornado, glielo ho controllato, glielo sto controllando, ho fatto una bella pulita, lui ha fatto le connessioni del microfono, e c'è un difetto, non riesco a capire cosa sia, fa questo rumore in ricezione, tic tic tic, parolenoso, infatti quando mi ha dato, ho detto cazzo me la vera che bomba a mano dentro, però ho eliminato l'autoparlante esterno, sa, l'ho attaccato quello, cioè interno, e gli ho messo quello esterno e lo fa di meno. E ce l'ho sotto controllo con l'antenna interna. Però adesso devo verificare bene tutta la parte delle PLL, tutta la parte semidigitale, perché questo è un semidigitale, vedere se c'è qualche componente in perdita, ma non me ne ha dato di fretta, quindi me la prendo con calma e vedo un po' domani di riprenderlo in mano. Controllare meglio se c'è qualche altra cagatina, vediamo un po', vabbè, facciamo girare, non monopolizziamo, avanti e te girare, Luca. Ciao Sardo, ben ritratto, ben ascoltato. Io non sento nessuno, eh. Anche a me senti, Sardo? Sì, no, ti sento, a te, a signor Torre di controllo, e basta, va bene, ok, dai, adesso prossima settimana dobbiamo stabilire un po' in campagna, ora, qui a San Giovanni, ci dovrò rimanere un pochettino perché c'ho la vecchia, fare un intervento al ginocchio, già ne ha fatto uno al ginocchio, adesso ci vuole l'altro e poi deve fare un altro intervento, quindi so come è degli appuscio. Poi la vecchia è la tua? Ufficiali, tanto, mi voglio dire, va un fratello solo, grazie a Dio, non bisogna niente. Anzi, ce ne va se vuole, e quindi non sono andato male. È che un po' di monotonia c'è, perché io come socio ero molto legato. E che anche come associa, però. Cai è già vita, e basta, non parliamo di morti, sennò torniamo a aprire la ferita più grande che hai, sa. Riprende e fai girare per falchetto, mi sto facendo la pipì addosso. Insomma, si tira. questo qua è esagerato. È come se adesso il ragazzo, facciamo un esempio, di tua sorella, ok, dice a trovare puttana, tu come reagisci? No. Allora quando incomincia a usare certi fiori, certi comportamenti, allora bisogna mettere un freno. Bisogna mettere un freno perché poi è come quello là che lancia la pietra, no? La prima, la seconda, la terza volta, poi ne approfitta e poi diventa un casotto e poi addio. Vedi un po', anche questo ha detto, pensa tu. E poi dice, lo fa rientrare di nuovo a casa, no, che cazzo. Addirittura gli ha detto, sono ferito, mi scompacca a trovare, ma c'è cosa da dire, so. No. Io guarda, me l'avrei guardato negli occhi, non è che gli avrei messo le mani addosso, l'avrei guardato soltanto negli occhi, gli avrei detto quattro paroline e basta. Poi logicamente si può aspettare a lui valutare, diciamo, se poi voleva fare il galletto, continuare a fare il galletto, allora insomma, allora evidentemente vuole assaggiare qualcosa. Stravaganza che non ti dico, va. Ti lascio immaginare, vabbè, comunque va bene. Ah, io c'ho, vabbè, diciamo che fa parte di quella metà fianca a me, ma sanno che è una vita che metto un mortolino lì, il mio mortolino è piccolino, non crea, non dà fastidio, ecco, al passaggio, siccome lui ha una moto più grande, me l'ha fatto il parcheggio una volta, due volte, tre volte, non ho mai detto niente. Alla fine un giorno mi sono trovato io con le palle girate, ho detto ascolta, come una cortesia, siccome la tua moto è un po' grandetta in confronto alla mia, ma la metti lì, a me non mi dà fastidio, ma tra l'altro non l'ha più messo lì, l'ha messo se perché se lui rimetteva la moto lì, allora non so, io però solo una volta a farlo, poi vado a lui cosa fare. Sai cosa succede? Succede che delle volte, magari uno è incavolato, lui giocherellone perché è ragazzo, gli piace giocherellare un po' quanto, e magari tu hai una certa età, sei più posato, rifletti di più, insomma ti piace la tranquillità, e ci sono quei momenti dove uno magari perde le staffe, poi vengono fuori le discussioni, vengono fuori, ecco dove poi va a finire come va a finire. Lo so, ma devo anche capire comunque sia. Non è più un ragazzino, vabbè, in confronto a me io ne ho il doppio di lui. Lui ha 18 anni e io ne ho 36. Più o meno siamo lì comunque. E non è che le ho fatto in giro da un bambino, ecco. È come se io prendo una persona in giro di, non so, una persona di 50-60 anni, diciamo, più o meno. Una cosa del genere. Vabbè, comunque. Io, qua, credimi, volevo uscire poco fa. La verità, volevo uscire per l'attimo che non lo fa fare. Se poi se esco, è un casino vero. Ma mi sono messo da parte e via. Ma penso che non ci torni più, Io lo spero, perché quando lo trovo glielo dico. Ma cosa lo deve fare a casa sua? Non qua. Ho fatto tante volte il casino. Avanti, fa che? Insomma, me lo pulizziamo, vai. Positivo. Poi, guarda, conviene evitare certe cose. Anche se c'è il tanto di prendere anche a scappellute, diciamo, vai. Ma molte volte conviene evitare, Kappa, riprendi Sandro. Sì. No, quello, ecco perché dicevo poc'anzi, conviene meglio evitare perché, meglio evitare perché va a finire come va a finire. Perché poi magari ci stai male, dici ma guarda ragazzino, lì questo e quell'altro, però meglio evitare tutto lì. Bravo. Eccoci, vediamo se ha ripreso Claudio. Vediamo un po', Sandro, una domanda, che tipo di microfono stai usando? Tipo microfono. Allora, il mic da base LAV1908. Questo lo sento molto compresso, confermi Falke? Sì, sì, sì, addirittura me lo smetter, mi torna quando sta modulando, mi torna indietro. Molto compresso come radio, è troppo cupa, Aspetta, provo a regolare da qua, vedi un po' così com'è. Prova, fa un passaggio più lungo. Ok, vedi un po', 4, 7, 6, 6, 6. È strano, non è che si è cambiato quasi niente. Non è strano. Ma è comprensibile comunque, ma è molto compressa come radio. Ecco. Ti sei stato becco. Non lo so, ha l'equilibratore per modificare questa roba così. Allora, aspetta un attimino. Vedi un po' di questo passaggio? Non più di tanto, sa. Ma basta la curiosità, non c'è problema. Già è comprensibile, non è, però è buona, è strana, non è chiara. Ma avanti, Beck. Buonasera a tutti, Gigi da questa parte. Tu a dormire ancora niente? No, ci sto andando, Lucari. Buonasera, Falchetto, Sandro, Spalviero. E più ce ne metta, non meno di passaggio solo. Lucari, mi devi dare. Scusando, Sandro. Questa radio non la voglio mettere in cambio domani. Questo microfono la fa metallica o la fa buona? Guarda, io lo sai, quando ti dico va bene, ma a me non mi piace. No, è troppo, come dire, sono assatura come radio. Ah, ecco, sembra troppo forte, tu dici, vero? È rauca, non mi piace lui. È quella che stavo usando l'altra volta, Claudio, confermi. Andrà giù. Ma la occa, siamo letto i fatti, ne metta milione. No, non mi piace lui, boh, non mi piace come radio. Non so come ti ascoltano gli altri, ma non mi piace. Boh, vai qualche, prova tu. Sì, diciamo che è forte, io lo sento forte. Sì, forte è forte, ma è strana, boh. Non è la tua solita radio lui, bella, capito? Questo è il microfono suo, questo è il suo microfono originale, con questo era il tuo metodo, è un po' metallica. Insomma, che ha dato più watt, risale troppo più watt e va quasi in saturazione, abbassa un po' il watt a vedere. No, è peggio se la abbassi, guarda, se la abbassi vedi che è peggio. No, c'è una cosa che non va con la radio lui, non è strano, non mi piace. E se risolvevo i suoi, guarda a vedere, così glielo sollevate tutti. Ecco, quindi adesso iniziamo già a migliorare. Aspetta un attimino, allora così a metà corsa, noi vorrebbe aperta la radio, non è solo aperta il radio. Diciamo che adesso un po', dai, è migliorato, ma non più di tanto. Diciamo che è accettabile, ma che radio è questa? È un brutto, adesso questo, stavo un po' regolando la regolazione, dai, la stavo un po' regolando, vedendo un po' com'era la situazione. Allora, così ho riportato ai fatti di prima, e aprendo di più il radio. Però mi piace, fa schifo. Invece così sono aumentati i fatti, ci signora ho girato il pomello e ho aumentato i fatti. Con i fatti aumentati va meglio. E si conferma, confermate? Sì, sì, per me va benissimo così. Aspetta a vedere, il microfono la fa metallica. Così. Vediamo un po' Sandro, visto che ormai lui è più lontano, vai sa. Ok, allora, ho messo il mic suo originale, poi mi dare conferma. Ma io la sento, come modulazione la sento, è bella, cioè bella squillante, piccante, però c'ha un po' di nasino, è comprensibilissima. Sì, positivo, vediamo un po' questo microfono qua. Questo è il CTE, Luca, quello famoso CTE. Ecco, questa qua va bene. Ce l'hai entrato? veramente quando riduci il watt, no, è brutta, no, va. Sto facendo da Claudio, non sa mai che poi. Ma poi fate anche Franchetto. Aspetta che rispondo a Sandro, aspetta un attimo che qua. Ci è salito troppo di watt. Ecco qua. Sinceramente, è strana la tua radio. Molto, effetto camera, ma camera chiusa proprio. Qua, vedi un po' tu le, quella di Luigi prima, il passaggio, e poi ascolta quella di Sandro. No, non lo sento bene a Sandro. Cioè, è comprensibile, sì, però non mi piace come radio. Allora, guarda chi tocca. Gigino. No, stavo provando, siccome l'altro giorno avevamo la notte e adesso stiamo facendo una bella. Adesso gli infatti glielo ho tutti a picchi alla radio, e di questo di suo sono 70 watt. Cioè 70 watt così la radio, questo baracchino. Così sono infatti al massimo, così sono a metà, e così sono quello che stavo tenendo io prima, al minimo. Così sono al minimo. Esce male. A metà ci siamo, tutto aperto di notte, è una bomba, radio bellissima, chiara, pulita. Fino a metà diciamo che va bene, lo stesso come chiudi la radio distorce, va in compressione, non va bene, ce la mangia. Allora va bene solo così con 70 watt, allora è stato così e sono al massimo dei watt. Ecco, il massimo dei watt va bene, puoi abbassare anche leggermente, ma quando abbassi tutto la modulazione se la mangia completamente. Il Mickey Gay non è tutto aperto, il Mickey Gay, vedi, adesso è tutto aperto il Mickey Gay. Se va benissimo. Ma tu dici che va bene così, in questa posizione così? Confermo anch'io. Dici, no, ma confermano anche gli altri, no? Io ti sto ricevendo adesso con 4.40, poi passo con gli altri radio, ma quando te lo confermo con questa va benissimo, tutta aperta, è una canonata. Anche se chiudi di metà va bene lo stesso, ma quando chiudi tutto la modulazione se la porta via e quindi rimane tutta compressa, stridula, non va bene. Positivo, faccio solo un'altra prova e mi lascio perché poi mi ritiro. Una prova solo voglio fare, un'altra sola. Ok, Claudio, allora questo è il suo mic da tavolo, quello che tu sai, diciamo, il suo da tavolo. Quello è l'MD1 B8 o C8? Questo è l'MD100. Allora, l'MD100, l'MD100 sotto c'ha un tastino, in che posizione ce l'hai? Allora, qua c'è scritto on, 1, 2, 1. Mettilo a 2. Ok, messo a 2, vedo un po'. Mettilo a 3. No, c'ha soltanto 1 e 2. No, l'MD100, sì, l'MD1 C8 c'ha tre posizioni. A 1, e la posizione è come ce l'hai tu, 50 kg o 500 kg? Allora aspetta, c'è un altro tastino che c'è l'ovo cotto, che adesso è sul 2, poi c'è man grit, sto uscendo, non sto così, non esco, così com'è? A quanto è così? No, se lo metti in mano non esce, a quanto è così? A 1 o a 2? Allora, tastino centrale che c'è scritto mic and passing e suon, poi c'è l'ovo cotto e su 2. Ecco, l'ovo cotto, mettilo a 1, vediamo se migliora. Ok, adesso è sull'1. Ok, è sull'1. Lasciamo così, che già c'è medio bassi. Dimmi un'altra cosa, il processore ce l'hai inserito, a quanto ce l'hai il Mickey Gay della radio? Allora, il MIC con massimo il processore inserito. Questo è l'MD1B8. Allora, sappi che l'MD1, cioè l'MD100, è il microfono del 920 della IAISU. E solo il microfono del 920 della IAISU lavora con il menu della radio. Quindi le posizioni che tu hai adesso praticamente sono quelle che il 920 come radio le dà base, le dà come direzione base. Quando però tu vai a inserire il menu del 920 e vai su MIC, ti accorgi che la posizione del MIC con il sottomenu praticamente del microfono è in contrasto, quindi devi agire praticamente sul menu. Agendo sul menu e sul processore del 920 col microfono è schioppettata, perché ce l'avevo. Su invece quella che stai usando tu, che non ha né menu né sottomenu, quel microfono non va bene. Non va bene. Non amplifica e rimane praticamente una modulazione a livello del microfono quasi normale. Per avere la amplificazione in quella radio che stai usando tu adesso, devi usare o l'MD1B8 o l'MD1C8, che praticamente sono quelli simili all'MC60 che io avevo e l'ho dato ad una persona che poi se l'ha venduto senza dirmi niente, perché l'ho detto avvisami se vendi la radio, che mi è rimasto ancora qua in gola, comunque non ci sono problemi. Te l'avrei dato, perché l'MD1C8, quello che avevo io, era proprio il microfono di quella radio che hai usato tu, mentre l'MD100, quello che hai tu, è il microfono 920, che lavora soprattutto con quella radio, dando le posizioni del menu e del sottomenu. Prego. Ok, dai. Quindi si addice più questo, vai. Questo sarebbe l'altro, la V. Beh, dai, comunque ho capito che già stava usando la radio, allora capisco tutto. Questo è... pensavo che era con qualche malacchino, là. No, sta usando una radio simile alla tua, però non è della marca Chemo di Maieres, che io ho avuto, conosco molto bene, ed è una signora radio alla grande, però lo devi mettere il microfono suo, quello che lui ha non è il suo microfono, è il microfono del 920. Come quello che ho dato a Franco, per farci capire, Franco Delta, però, capito? La stessa radio, lo stesso microfono che tu hai visto, quello nero, simile all'MC60. Ecco, lui sta usando quello, che non va bene con la radio che sta usando lui. Lui deve usare l'MD1B8 o C8, che sono di un altro tipo di contratto per quella radio lì. Ok? Sì, Sandro, va bene quella lì, c'è da fare qualche regolazione ancora, però va bene. Con l'estate un break lo faccio passare e poi mi pare tu chi ha falchetto. Avanti, break. Sì, buonasera, compagni della ruota, qua Leo Gino. Sandro sta usando la V500, 908, mi pare, me lo sa. Allora, questo è AV908. Hai schiavo, cos'hai sollevato? No, ho toccato qualcosa. Così com'è? Così va bene. Sì, vabbè, parla pure con Sandro. Questo è l'AV908, quello che sto usando Sandro. Lo sto usando con un 757 GX2. Capito? Capirci, si adegua a tutti quel microfono, sia Icon che Vudriaeso, tutti. Questa è la modulazione dell'AV908, torre, riprendi. Bisogna vederlo, sono a fare determinate comparazioni, eccetera. Falchetto, riprendi. Positivo, lo stavo ascoltando, è interessante il discorso, qua. Io te lo mandavo prima, pensavo che stavo facendo un malacchino. poi ho capito, è stato la radio, ora mi sto zitto, dai, tutto qua. picco ce l'hai, ma è sempre leggero. È l'aprile quella decisa, è l'aprile. È l'aprile, quando vuoi c'è lo schema, te lo metti in macchina, sali qua e ti faccio vedere una cosa di quella radio. E poi te le lecchi le dita, allora poi si dia anche le medie 100. Se le diamo una spinta leggera in più. Auto, livello di controllo, ALC, in inglese Auto Level Control, avanti a chi tocca, cambio. Aspetta, riprendo io, comunque per essere via Porto Torre si arriva benissimo, ci assembla qua in locale. Intanto sono lì, non va, è avanti a te, è la canzonina dei vetriati. Molto bene, il segnale va bene. Questa radio è un po' così, ma già va bene, va bene. Ok, avanti. Ciao Giuseppe, avanti Giuseppe. Poi c'è anche Tore. Però sento basso il radio, porco buia. Il segnale è buono, ma la radio che è bassa, non capisco. Buonasera componenti della ruota, da Leoncino. Claudio. Grazie Giuseppe per i complimenti. Dica. Le ho fatto un'altra modifica, ho procurato un'altra antenna. E vedi come sto uscendo. Dalla macchina sempre va a casa. Dalla macchina? Tu quando vai a casa metti l'antenna che ti ho detto io. Mi la buchi dalla macchina, ma se metti che la buggi sopra il motore esterno che c'hai della finestra del condizionatore. Ti porti il capo dentro e poi mi dici se esci bene. Va bene, adesso abbiamo fatto con Alessio Pompoio questa prova, vediamo un po', questa la lascio in macchina, poi l'altra, quando c'è l'altro palazzo, provo con l'altro, dai. Va bene, avanti Tore. Tore. Aiuto, fai adesso. Sì, poi dicendo, allora, la lì qui porto a posto, no, sembra che abbia o la voce sua compagna. Sì, sì, sì, ma leggermente cupo, ma io non voglio perdere adesso tempo e bloccare il question, ma se faccio due manovre con quel 908 ti faccio vedere, le fate anche con Roberto, Roberto esce molto bene, lo conosco benissimo quel microfono, l'ho avuto, ho avuto il 908, il 608, il 508 io della Dunis, proprio marcato ad Dunis. Quella è uguale alla 12, solo che l'hanno dato un'altra marca, capito? Però è lo stesso microfono quello, è molto bello, è bellissimo, mi piace molto più dell'MC85, è più compatto, è più, è più maturo, mi tocca, c'è una base molto, molto larga e lunga rispetto all'MC85, è un circuito all'interno molto molto più serio, molto più serio, molto bello quel microfono. Ok, Tore, Antonio, riprendi. Positivo, positivo. Cappa, è così. Prima se viene controllata la radio di Cosa di Sabra, già spinge, già spinge. Non so carico di San Radio, tu lo trovi a mettere, sono chiusi gli HF, sono chiusi per l'M, vedi, lo IESO già sia il 747 sia il 757 GX, il GX2, che è come la categoria praticamente del 140 e del 680, non cambia niente, avevano uno spazio molto ristretto in M, hanno un'apertura molto larga, sono larga banda infatti perché sono tre conversioni e sono praticamente molto larghi sia in banda laterale. Cazzo, è entrato un bufone, cazzo, la magrascia. Cazzo, ci vuole immaginare i cigli. È entrato un bufone. Cazzo, cazzo, a me è entrato. Stavo dicendo, essendo della radio a larga banda, lavorano molto bene in banda laterale, ma erano molto strette in una pista modulata. e quindi bisogna farle una leggera modifica, che è una stronzata, dandole un po' più di apertura, di autocontrollo dell'LC, proprio per la pièce modulata, in modo che quando tu hai 30 watt e 40 watt in AM li spinge tutti, invece siccome è molto più uso il controllo automatico della modulazione, te li rimanda indietro, rimandandoti molto, ma lo dico gli utili, cazzo, fa culo, molto, mandandoti indietro ti manda il picchi negativo, capito? È positivo. Positivo, ne prende sa. Ok. Ok, dai. Dopo, dato che la profitta, a salutare domani, e domani è un'altra giornata da prova di battaglia. Quanto la faccia, già qualche giorno mi viene un attimino, ok, beh, mi saluto tutti quanti, ci saranno anche. No, l'ho acceso il computer, dopo l'ho accetto. Va bene, va. Ok, beh, se ti saluto tutti quanti, alla prossima. Ciao Sha, riprendo io, ti saluto, un abbraccio e ci sentiamo. Dopo me lo guardo. Torre, se mi dai 10 minuti ti commuto il 706 con l'SM20, te lo faccio sentire. Gli ho fatto un leggero ritocco ieri. Ero senza far niente, appena non riesci a accontentare a Torre. Te lo faccio sentire con l'SM20, Luca, forse se non ricordo. L'SM20, così mi dici se spinge, se è meglio del 440 con questo ritocchino lì. Non è che si può fare molto perché è tutto digitale, però se dovrei mettere le mani ho dato un ritocchino proprio sul controllo automatico della modulazione. La scheda in mano naturalmente, avete sbagliato, sei due, sei fritto. Ok, 5 minuti vi faccio sentire il 706 MK2G. Avanti a chi tocca. Capo, lei ha provvito a salutare a Sandrino. Buon tutto santo e le migliori, dai, avanti Luca. Vabbè dai, io vi saluto signori, vi auguro una buona notte a chi lavora da mai, un buon trabacco e ci sentiamo tutte le prossime. Ciao ciao. Capo Giuseppe, ciao anche a te, buona notte, buon tutto a tutte le prossime. L'ho portato a un livello medio, nel senso che ho stretto leggermente la banda SSB e ho allargato leggermente sia quella della M che quella FM, altrimenti sarebbe molto molto più stretta e quindi non avresti questa tonalità alta, non c'era, non c'era, capito? Senza toccare le voli, perché quelle non si toccano, quella, però più quella in banda, perciò puoi agire la banda in banda, capito? Mentre sulle altre radio, quelle altre conversioni non lo puoi fare, qua si può fare. Una scheda che è praticamente la scheda inferiore del circuito SSB che ti permette di fare qualche regolazione, le altre schede sono intoccabili perché le mani tutte sotto, capito? Quindi era per farlo sentire, te l'ho detto l'altro giorno, e però facevo sentire, curso è su 7-0-6. Thank you. servizio, capito? Il microfono intanto se tu lo usi con la ICOM con 735 Si attaccaci moltissimi. Però devi far mandare il connettore, come c'ho io, con la spinetta, dall'adattatore da spinetta al connettore diretto del microfono. Io c'ho quello. Sì, completo quello, però il 720 non c'ha l'attacco a ghiera, ha l'attacco a spinetta di quello tipo telefono, ok, che si può attaccare da sotto nel frontalino, oppure dietro, io ce l'ho attaccato dietro per non vedersi niente davanti. Infatti dico, ma questo microfono dove non averlo, ci questa radio, ma non è un microfono, sì che ce l'ha, guarda, guarda dietro, è attaccato dietro, c'ha un attacco dietro o davanti, puoi usare il microfono da base attaccato dietro e il microfono da palma attaccato davanti, non c'è problema, capito? Quindi tu ti devi far mandare l'adattatore, la cazzo non c'è un nome quell'affare, quelli criptati, da quello lì al connettore, quello a ghiera, femmina, e tu ne attacchi pure il maschio del microfono. Lo provi perché c'è le stesse connessioni del 735, quindi non cambia niente. Però c'è una differenza, che il 706 con quello, siccome il 706 c'è il menu, tu vai nel menu dove c'è scritto MIC 11, ti porti il MIC 11 a 5, usi il compressore, che c'è il compressore 706, il compressore della radio, non usi il compressore del microfono, usi sia a metà i toni alti che a metà i toni bassi e poi mi dai la risposta, allora si pompa la ecca. Comunque non mi ha detto che secondo lui sono ottimali partito, quindi c'è molto poi ad andare loro, adesso mi ha fatto mandare. Insomma, finora i partiti a Chirugasi non si trovano in finale 706. È un casino, se li trovi a prezzi molto alti, tu. Non so, vedi te, fai te, oppure gambo mille. Quanti mani arrivai? Due? Uno lo sai, Fernando, qui. più tu, ma un guardato ne vuoi due. Due ne vuoi. A me è un umano che mi ha tu. Vabbè, te se te si occhi qua. Dice la sede da che passi. E se no ha cercato un mito, se la sede è va. Ma com'è va? Sai, pigliamo, andiamo, andiamo. Con lui. Ma non sapevi che a Alessandro l'avevano operato, sì. Qua Alessandro. Lui uomo. Vabbè. Che l'hanno operato. Allora, dove? Alla pianta del piede. Abbiamo fatto la prima partita, lui è nella, nel direttivo, non abbiamo inserito. Accompagnatore, così. E abbiamo fatto la prima partita bancari, è già 20 giorni. Oggi l'ho trovato, è ingessato uno stampello. È un calcio d'angolo che poi decide la palla fuori, dietro la tribuna bancaria. Certo c'è la porta, lui è seduto in tribuna, io ho una panchina. L'ho fatto uscire, adesso a me recupera la palla, prima la millimo, palloni nuovi nuovi. Capo c'è la porta sotto le tribune per uscire fuori la pianta. Oh, la muletta bloccata, un muro di 4 metri, è rimasto bruciato in terra, li si è bruciati anche. Allucinante. Ma si è fatto un bel male allora? Ah? Si è fatto un bel male. Come male, ci ho chiamato l'ambulanza, non va male. Se ci siamo tolto, c'è tre fratture nella pianta del piede, nel tallone. E si è frantumato il tallone. Non ne ha lui di muscoli nelle gambe, cazzo, va là anche che canterà la ceta, lo già. Come è sceso nel muro, ha praticamente frantumato il tallone. Capite, è rimasto lì. Sì, ma qui dice la mi ha telefonato. Vieni a prendermi, sono in te, come cazzo dice te? Ma caduto sì. Sì, sono andato, c'è la serva al piede contro la palla. Ho preso subito, c'ho quel ghiaccio spray, la sacchettina, c'ho tutto io, ho comprato tutto. Subito gli ho messo il ghiaccio, quello nella busta, quello che come lo tocchi, ghiaccia. Un po' gliel'ho abbassato, ho chiamato l'ambulanza, ho fatto all'ospedale. L'hanno prima staccato tutto, come ha abbassato il gonfio, l'hanno operato la settimana scorsa. Tre fratture scomposte al tallone, allucinante, cazzo. Ha detto, cazzo, che la bigliate qui tra un muruga. Lo hanno recuperato? Certo, non l'ha recuperato, è uscito avanti ieri dall'ospedale, c'era 15 giorni, 10 giorni. Cazzo. No, c'è assicurazione, mi. Non è che... Un motivo che aggadino. È assicurato, c'è assicurazione, sono un programma al giorno. Credo un 35 euro, una cosa del genere. L'ho avuto saltare, ma ho detto che ho saltato per fare prima, però senza accorgermi che cazzo le mie gambe non è che siano dei fatti. Adesso sabato me la prendo io, ma vorrei venire a vedere la partita. Quando esco al lavoro mi cambio e vado a prendere la mia baldetta. Lo porto, tanto giochiamo a Rizzedo. Tanto a Rizzedo giochiamo mi sabato. Sai che battevi lì? Sì, ma ne come? E io? Sì, ah, siamo in mangiare, voglio un appuntamento. E a che ora giocate? Alle 3:30. Se giocate a Madonna, se sono liberi non si passa. Io tanto abbiamo ingaggiato tutti i macchi a raccattare palle. Ma cazzo non sei lui, ma a raccattare palle. Chi dice che diceva chi vi devo. Non ve ne più di macchi chi vi ha, non mai come. Sì, cazzo mi ha ragazzi. 100 lire e ti canta la canzone in buco. Sempre mai chi giochi. Che raccontava tutta la vita della Juventus, cazzo, quanto ne sapeva quello. Io grazie a Ucraina, Marco, tutto disabile. Quello un giorno ho fatto una domanda, ho detto, ma tu lo sai in che anno, mi ricordo Bobbo Nioburo, quando frequentavo la Moria, avete detto in che anno la Juventus ha vinto il primo campionato? Io, ma cosa c'era a me? Tu dico io, ti ricordo la formazione, mi ha detto tutta la formazione, che ha segnato, chi ha espulso l'arbitro. Chi era la squadra avversaria? Cazzo, tutto maletto, ma sto parlando del 1972. Io avevo gente intelligente, per gente che ne sa più di che ne sa. Lucia ha detto, cazzo ci rimacchi i ginocchi, cosa sa nei giavi, cazzo, bebù. Allucinante, vabbè. Avanti Tore, ditemi quando volete chiudere. Che io con un dito faccio tutto, anzi col tallone del piede mi abbasso l'interruttore e ho finito. Io mi sa che ne approfitto, vi saluto, vi auguro buonanotte, buon tutto, e quindi, non so se domani passa a prendere il caffè. Non lo so come voi, se ce la fai passo, se non ce la fai pazienza. Io alle 7 mi faccio via Milano e poi scendo a prendermi il caffè e le sigarette. Se ci sei ti aspetto, se no pazienza, non ti preoccupare tu. Ma se non arrivi più tardi alle 7, perché io dovrei prendere il tram domani, che ho lasciato il motorino sempre in casa o più già, e l'ho lasciato in cantiere. No, tu vai tranquillo, allora ce la faccio prima alle 7. Alle 7 sarò ancora lì via Milano, scenderò lì 7:15. Capito? Vai tranquillo, là. Quando ci abbiamo 2 minuti ci vediamo, non c'è problema. D'accordo, ok, rinnovo la buonanotte e tutta la domani pomeriggio, dai. Ciao Luca, ciao Tore, ciao Claudio e eventuali ascoltatori. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Anto. Ciao. Ok, ciao Anto. Notte. Anch'io chiudo con la chiavata veloce al telefono, poi ne vado anche a nanna. A domani, ciao. Ciao Luca, ciao Tore, ciao Antonio, ciao a tutti quelli che stanno ascoltando. A domani, buonanotte a tutti, bye. Attendiamo giù domani alle 8, così facciamo qualche prova, ok? No, non c'è nessun problema, tu quando ti arriva quella roba lo sai se hai in Cagliari, ragazzi, ti fai un salto qua a casa, lo attacchiamo sotto strumento mio, a fianco al mio, vediamo come si comporta con l'antenna VHF, facciamo le prove che vuoi, te l'ho detto, sono a tua disposizione. Non ho problemi. Facciamo le prove che dobbiamo fare.